E chi non sa che io tengo ad arte il pianto pronto nelle pupille, a fingere se duo quel duol nel cuore, nel labbro il riso a simular gioire. Adoro a questo duol, grifone ingrato, fin sia muor con Orlando, e fu mia gioia il vederlo deluso in sue speranze. Qui fingue due spoglie, e nessuno mi piaceri, finti affetti, variando d'amor, cangiando oggetti.